Now for another set of new words and phrases. Ascolti e ripeta. Mi occupo di... I deal with. Mi occupo di... Mercato. Market. Mercato. Francese. French. Francese. Tedesco. German. Tedesco. Spagnolo. Spanish. Spagnolo. Speriamo. Hopefully. We hope. Speriamo. Parliamo. Let's talk. Parliamo. Cifre. Figures. Cifre. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e quando si sente sicuro, continui.